Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Bici o corsa? Quale attività scegliere? Quale preferite voi? Facciamo una specie di sondaggio nel corso di questa trasmissione. Raccontateci se siete podisti o ciclisti. Raccontateci soprattutto perché secondo voi una disciplina è meglio dell'altra, che benefici avete ottenuto, ma siate anche onesti, diteci anche il prezzo che avete dovuto pagare e, se volete, aggiungete anche che cosa vi ha spinto ad iniziare. Intanto, per riscaldarci un po', andiamo a sentire due testimonial d'eccezione. Per la corsa, il presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni. Corro da diversi anni, corro perché correvo da giovane, corro perché mi piace, corro con qualsiasi tempo meteorologico, anche un tappetino, un tapirulante a casa, ma non lo uso praticamente mai perché nulla è più emozionante che correre sotto la pioggia, quando c'è il ghiaccio, quando c'è qualche grado sotto lo zero, oppure evidentemente anche in condizioni normali. Il periodo di tempo più sfortunato è quello del caldo torrido, questa stagione dove si va alla ricerca dell'ora presta del mattino, dell'ora tarda la sera, ma si finisce che fa sempre troppo caldo. Ma altrimenti correre è comunque lo sport che più mi si confà, perché poi l'importante è che ognuno abbia lo sport che va bene a lui. Corro due volte alla settimana, un'ora circa, una dozzina di chilometri, un giorno del weekend, sabato alla domenica, l'altro in mezzo alla settimana, rubando il tempo agli impegni. Corro perché mi fa bene, dopodiché è chiaro che correndo viene anche la voglia di cimentarsi, di battere i propri record, di migliorare le prestazioni, di partecipare alle gare. La mia distanza non è né la maratona né la mezza maratona, sono i 10 km, i 15 km, di più lo ritengo non adatto al mio fisico e non ne ho voglia, ma sui 10 km, insomma, diciamo che non sono certamente l'ultimo della categoria e batto anche parecchi più giovani di me. Il mio consiglio è a tutti di trovare il modo di fare qualche cosa che si adegui al proprio fisico. Io ho fatto anche la bicicletta e altri sport, ma la corsa è quella che si adegua di più a quello che io sono ed è anche quella che mi piace di più. Correte, corriamo tutti insieme, fa soltanto bene. Se volete aggiungere qualcosa, chiamateci 800 24 00 24 e come testimonial della bici sentiamo la cartolina di Giorgio Squinzi, vicepresidente di Confindustria con delega per l'Europa e presidente della SEFIC, la Federchimica Europea. Andiamo. Io sono tifoso della bici fin dalla più tenera età, perché è una tradizione di famiglia. Mio padre è stato un corridore professionista negli anni dal 1928 al 1932 e io sono nato nel 1943 e sono cresciuto nel mito di Coppi e Batteri, soprattutto di Fausto Coppi. Ero un grande tifoso di Fausto Coppi. Una volta, un arrivo del Giro di Lombardia lungo via Jenner, qui a Milano, Coppi lanciò una borraccia in alluminio e io la presi e la conservo ancora tutt'oggi. Poi, vabbè, siamo come patron, ho gestito per 9 anni la prima squadra di ciclismo al mondo, la MAPEI, nelle sue varie declinazioni, MAPEI Class, MAPEI GB, e MAPEI Quick Step. Siamo la squadra che ha vinto di più nella storia del ciclismo e abbiamo vinto tutto. La cosa di cui vado più fiero comunque sono ancora le 5 vittorie nella Parigi-Roubaix con Franco Ballerini, con Andrea Tassi e con Johan Museo. E per me la bici da imprenditore è uno sfogo. Io la domenica mattina prendo la mia bici e dimentico tutto, tutti i problemi me li lascio alle spalle, parto da Milano, vado verso la Brianza, quindi verso il Monticello, verso il Colle Brianza, e veramente mi rilasso. Io penso che la bici la corsa sia un esercizio fisico straordinario, perché non è così stressante come la corsa a piedi, è un esercizio che permette di migliorare le tue prestazioni, soprattutto quelle cardiologiche, divertendoti, guardandoti attorno, i paesaggi, e questo è bellissimo. Se siete ciclisti e volete dire la vostra e provare anche a convincere un indeciso a scegliere, così altrettanto lo chiedo ai podisti, 800 24 00 24. Ma prima di presentarvi gli esperti di oggi, una domanda molto semplice: si bruciano più calorie in un'ora di corsa e in un'ora di bici? Non rispondete ora, ma quando nel corso della trasmissione io pronuncerò la fatidica parola calorie, a questo punto scatenate il vostro ditino, e il primo di voi che manderà la risposta esatta al 349-238-6666 riceverà a casa il libro Il cibo per lo sport, per chi fa attività fisica e leggere, per chi si allena a livello agonistico, in collaborazione con IBS. Allora, qui in studio con me innanzitutto è tornato a trovarci il dottor Gianluca Melegatti. Wow, buongiorno. Buongiorno. Grazie, responsabile del centro di riabilitazione sportiva dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Abbiamo finalmente il dottor Simone Diamantini, che è preparatore atletico e responsabile della squadra nazionale di fondo. Buongiorno e bentornato, è un Buongiorno po' che mancava. E molti di voi se lo aspetteranno. È venerdì oggi, torniamo a una vecchia tradizione. A una vecchia tradizione, il nostro dottor Franco Confalonieri, medico sportivo e responsabile della DDS di Settimo Milanese. Quindi tre esperti a vostra disposizione per commentare le vostre scelte, motivarvi a scegliere, suggerirvi tempi e metodi di allenamento, sempre con un occhio di riguardo al nostro benessere. Allora, dottor Confalonieri, che cosa chiediamo noi in fondo ad un'attività sportiva? Che sia piacevole, praticabile, che ci procuri benefici a livello fisico e mentale, cioè vuol dire che oltre a farci bruciare le calorie ci scolpisca un po' i muscoli, aiuti il cuore e il cervello a funzionare bene, insomma. Però sia la bici che la corsa hanno tutte queste caratteristiche. Sì, diciamo che un'attività sportiva chiediamo fondamentalmente di stare meglio. Stare meglio con noi stessi, stare meglio psicologicamente, stare meglio fisicamente. E in particolare stare meglio fisicamente significa avere un apparato cardiovascolare, un apparato respiratorio che funzionano meglio o invecchiano meglio, mantenere un tono muscolare e magari ridurre la tendenza all'ingrassamento tipica dell'invecchiamento di certe abitudini di vita. Quindi questo chiediamo. E la bici e la corsa ci danno tutte queste cose, ma soprattutto sono, insieme al nuoto, lasciatemelo dire, che è il mio grande amore, sono sport estremamente semplici, estremamente naturali, estremamente facili da praticare, non richiedono un apprendimento particolarmente complesso, e quindi sono davvero le attività alla portata di tutti. Buongiorno. Buongiorno, che sto citando. Io vorrei andare in bicicletta. E ci vada? No, cosa ho capito? Io vorrei imparare ad andare in bicicletta. No, se lei è troppo piccolo, la bicicletta le fa male. Basti fra qualche anno, col permesso di mamma. Ma guardi, io vorrei prendere delle lezioni e sono disposto a pagare, e bene. S'accomodi, prego. Grazie. Possiamo intendersi. Ma certo, certo. C'è Tazio. Sì, la finanza? No, Tazio Nuvolari, il nostro grande. Nuvolari! Sì, il ciclista. Professore, volante, automobile. Ah già, che stupido, corridore d'automobilisti. Sì. Questo ragazzo si farà, Si farà! Allora, Simone Diamantini, qual è l'identikit del ciclista? Qual è quello del podista, runner che si dica? Insomma, il fisico aiuta, no? O aiuterebbe? Ma assolutamente sì. Diciamo che magari è meglio, più che l'identikit, a chi preferisce o chi è meglio che faccia corsa piuttosto che faccia bicicletta. Sicuramente soggetti particolarmente pesanti è utile che la corsa a piedi almeno all'inizio non la pratichino, perché comunque insomma gli impatti a terra sono importanti, trovare strade sterrate in città è ben difficile, a meno che si va nei parchi, però poi diventa ripetitivo continuare a fare sempre lo stesso giro. E invece in bicicletta si sta seduti, certo un po' di male al sederino viene, però con l'abitudine, con un lavoro aerobico e quindi con anche una frequenza di pedalata abbastanza agile, quindi non con rapporti troppo duri, si riesce anche a dialogare con un compagno, magari senza cercare di far arrabbiare troppo gli automobilisti, però certo, è uno sforzo quello più adeguato e più misurabile. Quando si è stanchi ci si può anche fermare di corsa, sia che si va piano che si va forte, si fa sempre fatica. Dottor Melegatti, mettiamo un po' a confronto l'impatto che corsa e ciclismo hanno su muscoli, ossa e articolazione, vantaggi, svantaggi, cerchiamo un po' di fare un bilancio e possiamo anche fare delle scelte, quindi dire certamente meglio la bici o meglio la corsa. Beh, quello è molto soggettivo. Beh, intanto ribadisco, sono due attività straordinariamente utili che fanno bene. Sono due attività che fanno bene se vengono fatte bene. L'impatto di queste due attività sul fisico è naturalmente diverso. A livello della bicicletta non abbiamo il carico assiale e quindi non abbiamo sollecitazioni importanti a livello delle articolazioni della caviglia, del ginocchio, dell'anca, anche le rachide. Viceversa, in bicicletta, ecco, in bicicletta non abbiamo queste sollecitazioni perché la posizione, la postura in bicicletta favorisce una sorta di scarico a livello della colonna lombare. È vero anche che tutto questo dipende da alcuni fattori, per esempio la distribuzione dei carichi a livello della bicicletta dipende molto anche dalla posizione in sella. La posizione in sella è fondamentale per affrontare un'attività così bella, così utile, in maniera assolutamente salutare. Quindi la posizione in sella è veramente, dalla posizione in sella dipendono i carichi, dipendono gli eventuali problemi che un ciclista può avere. Allora, intanto abbiamo già numerose telefonate, voglio dare la parola a Valeria che ci chiama da Bari all'800240024. Valeria, buongiorno. Buongiorno. Allora, una semplicissima domanda. Per un dimagrimento localizzato, quindi nella parte addominale, sì, insomma, un po' meglio praticare la camminata veloce perché è impossibilitata la corsa per problemi di schiena, o meglio la bici? E quanti chilometri? Sembrano delle domande semplici e poi noi giriamo sempre tutte lì, no? Io vorrei fare una domanda alla nostra ascoltatrice, ancora in linea. Valeria, sì, ci sei? Sì. Ma questo dimagrimento localizzato a livello addominale riguarda lei o un suo amico uomo? Allora, me e anche, diciamo, un mio cugino con cui abbiamo iniziato questo percorso, diciamo, di camminata che stiamo effettuando quotidianamente. I risultati ci sono perché sono già un mesetto, però prevalentemente distribuiti sulle gambe, perché insomma le gambe sono molto toniche, va via la cellulite, insomma, per quanto riguarda l'aspetto femminile, insomma, gli uomini un po' meno, però la pancia è un po', insomma, la pancia è giù, è dura da buttare giù. Esatto, sì. Allora, no, dottor Confalonieri, ho fatto questa domanda perché l'accumulo del grasso a livello addominale è più tipicamente, lei è un curioso, ma sì, anche perché l'accumulo del grasso a livello della pancia è più tipicamente maschile che non femminile, e quindi solito sono gli uomini che ti pongono questo problema. Le donne denunciano un accumulo di grasso a livello dei glutei piuttosto che a livello delle cosce, più tipicamente, che non a livello della pancia. Purtroppo il problema del dimagrimento localizzato è un problema praticamente irrisolvibile, nel senso che noi perdiamo il grasso corporeo in modo uniforme su tutto l'organismo, quindi se tende a depositarsi in funzione della nostra struttura e in funzione della nostra genetica in determinate zone, lì prevalentemente rimane. Ciò detto, io sì, però, perché sennò qua chiudiamo la puntata. Bravo. Ecco, brava. Ciò detto, indubbiamente, però qui non vorrei rispondere alla domanda posta ai nostri ascoltatori, sono un po' in difficoltà. Ecco. Cosa faccio? Rispondo o non rispondo? Non rispondo. Non rispondo. Allora, ciò detto, demandiamo ai nostri ascoltatori la risposta rispetto al fatto che la corsa o il cammino veloce, che mi sembra un'indicazione estremamente utile, soprattutto per chi non è allenato, quindi la scelta della nostra ascoltatrice mi sembra molto intelligente. Ciò che tra corsa e bici serve di più lo lasciamo dire ai nostri ascoltatori. Emilio da Lecce, buongiorno. Buongiorno, salve. Ascolti, io faccio una semplice domanda. Volevo sapere, avendo io problemi di ernia del disco, sì, chiedo all'esperto se è consigliabile la bicicletta, la corsa o nessuna delle due. Dottor Melegatti, è una bella domanda. Allora, perché i miei ascoltatori dicono una domanda semplice, però in effetti intanto bisognerebbe capire questa ernia del disco come si manifesta. Se è un'ernia del disco che si manifesta spesso con un problema sciatico, è un conto. Se è un'ernia del disco che si manifesta con un po' di rigidità della muscolatura lombare, con un po' di limitazione della mobilità, però tutto sommato ben controllata è un altro discorso. Allora, diciamo che per questa seconda situazione, quindi non per una sciatalgia acuta da ernia del disco, ma piuttosto per una lombalgia, io direi che la bicicletta può essere estremamente utile. Se dovessi scegliere tra la bicicletta e la corsa, io sceglierei la bicicletta, a patto che questa persona venga assolutamente valutato in sella e quindi vengano valutati dei parametri fondamentali che sono poi quelli che sovraccaricano o meno il rachide lombare. Simone, abbiamo capito che insomma come si sta in sella è determinante per non sovraccaricare le articolazioni. Ci dai qualche dritta? Beh, allora innanzitutto le dritte sono molto difficili da fare via telematica, però le indicazioni più semplici che si possono dare, siccome oramai le biciclette sono tecnologiche, sono super accessoriate, innanzitutto scegliere un materiale, parlo di scarpe, di attacchi a sgancio rapido, che sia il più funzionale possibile, cioè che abbia la possibilità di muovere più facilmente possibile il piede. Se è le prime volte che andiamo, montare dei pedali normalissimi con le scarpe magari da ginnastica va benissimo, anche solo per adeguare proprio l'abitudine del proprio sedere, del proprio perineo sulla sella. Farsi mettere in posizione da una persona e dal ciclista, se è una persona capace, rispetto al proprio cavallo, quindi l'altezza della lunghezza delle gambe e la lunghezza del busto. Consideriamo che il ciclista è appoggiato su 5 punti, che sono le mani, il sellino, sì, e il pedale, sì. E poi ovviamente se invece abbiamo delle patologie particolari conviene andare magari nei centri apposta dove fanno le valutazioni biomeccaniche e dove magari c'è una valutazione un po' più scientifica, certo. Se non abbiamo nessun tipo di problema e lo facciamo per diletto, io penso che anche e facciamo magari una seduta a settimana possa andare benissimo una posizione più o meno adeguata, ecco. Dottor Melegatti? Ma volevo aggiungere a quanto detto da Simone solo una cosa, quello che ha detto è perfetto. Quello che volevo aggiungere è che per persone che hanno problemi di mal di schiena, perché sono tantissime, allora varrebbe la pena di essere valutati non tanto dal ciclista o dal centro biomeccanico, perché quei centri biomeccanici che ti sistemano la posizione molto spesso sono validi per degli atleti professionisti sani, sì, quindi per prevenire eventuali problemi, ma non per tra virgolette curare. Quindi sarebbe bene rivolgersi a quei centri che hanno non tanto il biomeccanico ma quanto il medico che si occupi di questi problemi, ed è veramente importante questo. Quindi se avete mal di schiena non abbandonate la bici, però studiate il problema più approfonditamente. Avanti, continua, ancora uno, coraggio, l'ultimo, bene, così, forza, abbiamo finito. Alza. Oh, che fatica. Molto bene. Grazie per l'allenamento. Questo non era l'allenamento. Non era l'allenamento? Era il pre-riscaldamento, che precede il riscaldamento, al quale segue il pre-allenamento, che prepara all'allenamento e termineremo con il post-allenamento. Infine eseguiremo un graduale raffreddamento di 60 minuti. In che consiste il graduale raffreddamento? In una corsa in salita, poi si cammina in discesa. Ah, bene. All'indietro, sulle mani, con i pesi alle caviglie. Simone, allora, per chi vuole iniziare, ma anche per chi vuole migliorare, gli allenamenti come gli esami non finiscono mai, ma da come si inizia e quali sono le caratteristiche che ci assicurano una performance buona e senza rischiare articolazioni, muscoli e quant'altro? Ma allora, se parliamo di corsa o bicicletta, ci vuole comunque lo stesso tipo di atteggiamento, bisogna andare con gradualità. Non iniziare con obiettivi troppo importanti, ma magari alternare un giorno di riposo con un giorno di corsa, o addirittura per chi non ha mai corso in tutta la sua vita, alternare della corsa al cammino. In bicicletta ovviamente è un po' più semplice, nel senso che si può andare anche per 45-60 minuti la prima volta, bisogna stare attenti, ripeto, a utilizzare dei rapporti agili, però in tutte e due le discipline è necessario sempre, a mio parere, se si vuole fare un lavoro adeguato e non partire dall'estate per poi fermarsi all'estate, ma continuare con l'inerzia invernale a fare qualcosa che sia anche al di là, magari delle sedute di stretching, un po' di lavoro in palestra, quindi che ci dia una struttura anche più resistente, più adeguata. Insomma, il nostro corpo è molto facile da allenare, ma è anche molto facile da disallenare, e dopo tanto tempo di sedentarietà Non so perché guarda proprio mi guarda fisso negli occhi Elisa dalla provincia di Milano, esco dall'imbarazzo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per la bellissima trasmissione. Grazie a lei, mi racconti. Io ho 56 anni, ho fatto sport da sempre a livello amatoriale, alcuni anni fa mi sono separata e per vincere la tristezza e la depressione ho iniziato a correre. E corro quasi tutti i giorni, 3-4 volte alla settimana, e amo moltissimo questo sport perché mi consente di, non soltanto a livello psicologico, di uscire dalla tristezza, dimenticare i problemi a casa, sì, ma soprattutto perché mi consente di tuffarmi nell'aria, di sentire l'odore dell'erba, di godere del cielo, della pioggia quando piove, del sole quando c'è il sole. Elisa, è stato proprio terapeutico a 360 gradi la corsa per lei. Dottor Confalonieri, ci sono delle ricerche che dimostrano quanto l'attività fisica in generale, quindi anche la corsa, abbiano proprio un impatto positivo sul nostro cervello, sul nostro umore. Ci sono tutte delle, no? Parte tutta una biochimica dell'umore, sì, attivato, del buon umore attivato proprio dai nostri muscoli che si mettono al lavoro. Dottor Confalonieri. Ma direi che ci sono due aspetti da considerare. Uno lo accennava molto correttamente, indubbiamente l'esercizio fisico crea delle modificazioni a livello neuroormonale che facilitano il buon umore. L'altro, e direi che potrebbe essere particolarmente pertinente per la nostra ascoltatrice, è un recupero del rapporto con la propria corporeità attraverso l'esercizio fisico. In una fase critica come può essere quella della separazione, in cui indubbiamente si va in crisi rispetto al rapporto con se stessi, recuperare il rapporto con se stessi attraverso l'esercizio fisico può essere davvero terapeutico. Io l'unica cosa, anche per l'esperienza personale di tutti questi anni, che mi permetto di raccomandare non tanto alla nostra ascoltatrice ma a tutti quanti che si trovano nella stessa situazione, è la massima attenzione da un lato al fatto che non si crei una dipendenza troppo forte con l'esercizio, perché a quel punto, il momento in cui il piccolo problema ci impedisce di farlo, anche magari soltanto per un mese o due, rischiamo di squilibrarci, e dall'altro lato un'estrema attenzione alle problematiche di tipo alimentare. Cioè, molte volte le persone che scelgono di fare esercizio fisico così continuativo tendono anche a non alimentarsi in modo adeguato, a perdere troppo peso, quindi voler modellare il proprio fisico andando anche oltre quelle che sono le condizioni di salute. Quindi perfetta la corsa, perfetta se vissuta con equilibrio, attenzione però a nutrirci in modo adeguato e quindi a mantenere un peso forma, a non dimagrire troppo. Perché non è solo un problema di calorie. Dottor Confalonieri, allora, intanto stanno arrivando i messaggi, adesso poi mi metto gli occhiali, qualcuno di voi manderà un messaggio al 349-238-6666, è arrivato il momento di rispondere alla nostra domanda: si bruciano più calorie in un'ora di corso, in un'ora di bici? Ma dottor Melegatti, io torno da lei perché proprio in fase di allenamento spesso vengono fuori dei piccoli problemi, dolorini, fitte, a volte passano da soli, benissimo, altri invece mettono un KO, non sempre però sappiamo riconoscerli e ascoltarli. Ci sono proprio poi delle persone che tirano avanti, prese dalla passione, e poi si devono fermare, ed è un peccato, no? Certamente, e questo succede alle persone che fanno tanta attività soprattutto, quindi dipende molto dal carico che uno mette in campo. Ci sono dei campanelli d'allarme naturalmente, quindi io quello che vorrei segnalare è questo: dal momento che la corsa o la bicicletta fanno così bene, e l'abbiamo visto non solo, sì, dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista mentale, ci sono persone che difficilmente rinunciano alla propria corsa o al proprio giro in bicicletta. Difficilmente rinunciano anche magari in presenza di qualche piccolo problema magari anche lontano, sì, un torcicollo, un dolore alla spalla. Questi sono i problemi poi che si trasformano in sovraccarico, magari più in basso, a livello dei piedi, a livello del tendine d'Achille, a livello delle ginocchia. Questo succede sia per la corsa che per la bicicletta. Quindi bisogna non esagerare, fare attenzione a quei piccoli segnali, che certe volte non sono così piccoli, che provengono anche lontani dalla zona dai piedi o dalle ginocchia oppure dalla schiena. E quindi fermarsi, valutare bene il problema e poi riprendere gradualmente. È un problema soprattutto di intensità di esercizio. Allora, intanto Antonietta ha mandato per prima la risposta giusta al 349-238-6666 e in collaborazione con IBS potrà ricevere a casa il nostro consiglio di lettura di oggi, il cibo per lo sport, per chi fa attività fisica leggera e per chi si allena a livello agonistico. Anche se questa domanda era una domanda nella sua semplicità un po' complessa, dottor Confalonieri, perché è vero, sì, la risposta giusta è... La risposta giusta è che a parità di intensità e quindi di impegno e di durata dell'esercizio si consumano più calorie con la corsa che non con la bicicletta. Però è fondamentale la premessa, nel senso che tutto sommato è più facile fare un esercizio prolungato in bicicletta che non a piedi, e quindi il singolo allenamento in bicicletta molto spesso ci consente di consumare di più. Non certo. Solo il consumo di calorie è proporzionale al peso corporeo, chi pesa di più consuma di più, e molto spesso soprattutto chi è in sovrappeso privilegia, per i motivi che dicevano prima gli altri esperti, privilegia la bici rispetto alla corsa. Quindi certo, potrebbe essere con un peso maggiore alla fine ha consumato in assoluto più calorie proporzionalmente allo stesso numero, proprio chi è andato in bicicletta piuttosto che non chi ha corso. Da questo punto di vista direi che idealmente, soprattutto perché in sovrappeso, potrebbe essere fatto attraverso una gestione mista delle due attività, quindi camminare e andare in bicicletta, recuperare un po' di tono fisico, recuperare un'abitudine cardiovascolare e respiratoria allo sforzo, e a quel punto sintetizzare la bici e il cammino con l'attività di corsa. Simone, tu cosa pensi? Una buona idea? Mi sembra... Beh, non puoi dirgli assolutamente sì. No, assolutamente sì, anche perché di fatto la corsa, proprio perché ad ogni passo si solleva il centro di gravità, è quella più faticosa inevitabilmente, tant'è vero che chi fa bicicletta e va in pianura qua a Milano diventa molto semplice, chi comincia a trovare qualche salitella comincia facilmente subito a far fatica, e lì il peso anche lì in quel caso conta. Ovviamente non avendo gli impatti a terra è un po' meno duro, però secondo me il mix delle discipline è sempre la cosa migliore, perché poi io che arrivo sia dal triathlon che dallo sci nordico si usano tantissimi mezzi di allenamento per allenare una disciplina, magari come lo sci di fondo, e noi usiamo tutto, dalla camminata in montagna, la corsa, gli ski roll, quindi proprio per alternare anche gli stress. Quindi, dottor Melegatti, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di schierarsi, corso e bici, ma nel corso della trasmissione stiamo praticamente arrivando a dire mescolate, abbinate, sì, alternate. È un buon consiglio quello di mescolare. Io sono un po' di parte e preferisco la bicicletta. Eccolo, alle 11.43 si è schierato. Ma capisco che la bicicletta, cioè, ci sono dei problemi per andare in bici. Ci vuole più tempo, sì, ci vuole un mezzo meccanico che deve essere a posto. Non puoi prendere la bicicletta scassata dalla cantina e andare a farti un giro in bici, perché poi ti vengono i problemi. La bicicletta deve essere regolata in base alle tue caratteristiche corporee, quindi è più difficile. Sì. La corsa è molto più immediata, certo, uno esce di casa e corre. Però la bicicletta... Per quanto mi riguarda, mi dà più soddisfazione. 800 24 00 24. Andiamo da Giuliano, che ci chiama dalla provincia Monza Brianza. Così mi hanno scritto le ragazze del nostro centralino, che ringraziamo. Grazie Giuliano, buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda. Quando le ginocchia scrocchiano proprio a livello di udito, si sente proprio toc toc toc, bisogna rinunciare o verificare, diciamo? O pensare ad altro, fare scroccare le dita. Ma proprio un rumore forte che arriva dalle ginocchia, diciamo. Secondo me lei dovrebbe andare a ballare, Giuliano, però questa non so se il dottor Melegatti la passa al ballo, però Bisogna vedere bene se questi scrosci articolari sono benigni, come per la maggior parte dei casi, oppure se nascondono un problema cartilagineo. Nella maggior parte dei casi, come dicevo, è una situazione abbastanza comune che non prevede una cautela eccessiva. Certo che se questi scrosci si accompagnano anche a un po' di disagio, basta solo un piccolo disagio, vale la pena di fermarsi e di considerare. Poi bisogna capire quando vengono questi scrosci. Camminando normale, facendo le scale, andando in bici, bisognerebbe valutarla con un po' più di attenzione. Intanto, bici o a piedi, correndo, a passo lento, mi raccomando, domenica 3 luglio, in edicola, perché c'è il 7° volume della collana Racconti d'autore, in edicola con il Sole 24 Ore, a 50 euro in più. Il libro di domenica è un libro di Amelino Tombe, comprenderà due racconti, L'entrata di Cristo a Bruxelles e Senza nome, sono due racconti e due storie di redenzione. Ve lo ricordate, anzi lo farò leggere anche al dottor Franco Confalonieri, che domenica andrà in bici o a piedi? Io leggo, il mio vizio è leggere. E quindi vedi, anche per andare a leggere bisogna fare due passi, perché bisogna recarsi in edicola. Giuseppe dalla provincia di Lecco, si ricordi, domenica? Sì. Intanto, buongiorno a lei. Allora, io fumavo fino a 6 anni fa e quest'anno ho fatto la maratona. Sì. Ho fatto la Milano City Marathon. E niente, volevo dare la mia testimonianza, nel senso che fino a 40 anni ho giocato così a calcetto, poi ho iniziato a correre, corricchiando, e poi pian pianino, e quest'anno ho fatto la maratona. Che tempo? In che tempo? Ah, 4:16. Com'è 4:16? Per essere la prima maratona non è male, dai. Perché comunque concluderla è un grandissimo risultato, concludere una maratona, soprattutto quando uno ha appena cominciato a correre. Adesso può partire da 4:16, con un buon allenatore il prossimo obiettivo può essere correre già sotto le 4 ore. Ma il prossimo. Dai, forza, ma Simone, ce la farà? Assolutamente puntiamo? Sì. Puntiamo? Puntiamo su assolutamente Giuseppe? Assolutamente sì. Parto solo da una considerazione: quando ci si appassiona alla corsa partiamo sempre come primo giorno d'allenamento da quello di riposo e poi dopo facciamo un programma adeguato. Mi piace questa, partiamo dal primo giorno di riposo, sì. Secondo? Poi dopo di allenamento, con un criterio fatto magari anche da chi può consigliarlo, dargli una mano, eccetera, eccetera. Piero, buongiorno a lei, da Roma. Buongiorno. Io sono un po' distanato, praticamente fino all'età di 30 anni correvo anche da casa per andare al bar, e poi un problema al ginocchio mi ha fatto cambiare. Ho dovuto prendere la bicicletta e mi sono appassionato alla bicicletta. Ho scoperto un mondo nuovo e da podista dico che mi schiero fortemente con la bicicletta. Si conoscono paesi, si vedono paesaggi che in corsa non si potevano apprezzare. E è vero che il mezzo meccanico costa e il ciclismo ha un costo maggiore, e anche in termini di traumi, perché purtroppo cadere in bicicletta, le città sono pericolose, le strade, certo, non sono buone. E per dirla, un copertone di una bicicletta adesso costa 50-60 euro e si può bucare anche due volte in una giornata. Mentre le scarpe che ogni tanto però, Simone, bisogna cambiarle. Dopo circa 700-800 km, anche 1000, poi dipende dal peso, vanno cambiate. Ecco, guardiamo anche le scarpe, perché sono assolutamente importanti. Abbiamo parlato della bici, anche due prima, indicazioni, anche prima, dici tu. Sì. Allora, io potevo contraddirvi solo in un punto. E per quanto riguarda il consumo di calorie, è vero che bisogna fare le dovute proporzioni, però tutti coloro che passano dalla corsa, dal podismo al ciclismo, hanno una soglia aerobica molto più bassa, circa 15 anche battiti. Quindi se paragoniamo l'80% di un ciclista, di uno sforzo, all'80% di un podista, allora sono molte calorie in meno. E io ne ho trovato, ho visto questa differenza, quindi un'ora... Io in bicicletta riesco ad avere una media battiti di 180 facendo delle corse, di corsa una media battiti di 180 non si riesce a tenere, è quasi impossibile, quindi secondo me in bici si consumano molti più calorie, poi dipende anche da come ci si va, insomma. Sì, anche dal peso, dall'allenamento. Dottor Confalonieri? No, ma non è in contraddizione con quanto detto, nel senso che abbiamo detto a parità di intensità, e ovviamente l'intensità va valutata in funzione di, a patto di soglia anaerobica, cerchiamo di tradurre, la soglia anaerobica è quell'intensità alla quale cominciamo ad accumulare acido lattico, ed è vero che noi cominciamo ad accumulare acido lattico ad una frequenza cardiaca più alta, probabilmente correndo che non in bicicletta, però a parità di intensità il consumo è maggiore nella corsa, sicuramente. Comunque, in chiusura di questa trasmissione, se nonostante tutti i consigli, l'allenamento, la passione, l'attrezzatura, arrivate sempre ultimi, non buttatevi giù, perché pensate che c'è qualcuno che ha fatto di necessità virtù, insomma è riuscito a trasformare la sconfitta in una vittoria, è una storia vera, e in linea abbiamo con noi Matteo Caccia. Matteo, dove sei? Sono a casa, Nicoletta. Ciao. Però se preferisci vi dico che sono da tipo a correre in bicicletta o a piedi. No, assolutamente. Io voglio che tu ci racconti questa storia, che mi piace molto, che tu me l'hai raccontata e che mi sembra un'ottima conclusione di questa trasmissione. La storia è una storia che alcuni si ricordano, probabilmente le persone sopra i 50-55 anni, perché Luigi Malabrocca, si chiamava così, era un ciclista che correva nel secondo dopoguerra, tra gli anni 40 e gli anni 50, e correva con ciclisti come Fausto Coppi e Gino Bartali, quindi personaggi del ciclismo cui tutti si ricordano o almeno hanno sentito parlare. E Luigi Malabrocca era un buon ciclista, non era un campione, era un buon passista, era uno che riusciva a fare lunghi percorsi e tenere il passo, però non aveva la spinta di un velocista e la capacità di un arrampicatore di montagna, e quindi aveva capito che in quell'epoca, in quel periodo storico in cui appunto l'Italia usciva da una guerra e c'era una grandissima povertà, ma anche una voglia di rinascere dopo il conflitto mondiale, una persona che arrivava ultima in una gara poteva semplicemente suscitare la simpatia del pubblico. L'aveva capito perché lui era arrivato ultimo ad una tappa del Giro d'Italia proprio perché aveva forato una gomma, e quindi è arrivato ultimo, aveva visto che la gente lo applaudiva, e siccome era una persona di grande ingegno si era accorto che se arrivava ventesimo, se arrivava decimo, trentesimo, nessuno si accorgeva di lui. Se invece arrivava ultimo poteva diventare un personaggio. Lui divenne un personaggio al punto che arrivò ultimo per due volte al Giro d'Italia del 46 e del 49, e lui venne soprannominato la maglia nera, perché il primo al Giro d'Italia vestiva la maglia roda e tuttora la veste, e quindi semplicemente per antitesi l'ultimo divenne la maglia nera. Da lì qualsiasi classifica anche oggi ha una maglia nera, cioè l'ultimo della classifica. Lui però, e ci tengo a raccontartelo questo, quando io l'ho incontrato per scrivere uno spettacolo che si chiama appunto La maglia nera, ho avuto la fortuna di incontrarlo poco prima che morisse purtroppo 4 anni fa, lui ci tenne a raccontarmi che sì, lui arrivava ultimo, però in realtà lui era un corridore e in carriera poi tra gare da professionista e da dilettante vinse oltre 100 gare, insomma era uno che sapeva come si correva in bicicletta, ma sapeva anche come tirare a campare, in sostanza. Grazie a Matteo Caccia, ai nostri esperti di oggi, grazie a voi che ci avete seguito. Vi ricordo allora l'appuntamento in edicola con il 7° racconto d'autore a sole 50 centesimi in più oltre al prezzo del quotidiano. Ci vediamo, anzi ci sentiamo lunedì.